all'autonomia statutaria aretina. Si stabilisce che gli statuti aretini devono essere approvati a Firenze. Si dice anche, e questo è un altro punto importante, che il capitano di custodia e i podestà inviati da Firenze e scelti a Firenze devono conformarsi agli statuti locali, ma anche agli ordinamenti emanati da Firenze per Arezzo. E quindi immediatamente c'è questa idea, si apre questa possibilità alla penetrazione di ordinamenti fatti al di fuori di Arezzo dalla città dominante. Infine, e anche questo è un punto importante, è riconosciuto l'arbitrio del capitano, che è fiorentino, in caso di alcuni delitti, in particolare di attentati al pacifico stato della città e al dominio fiorentino. Qui dunque non giocano gli statuti cittadini. Approvazione a Firenze, validità degli ordinamenti pubblicati a Firenze nelle città soggette e arbitrio concesso ai giudicenti in alcuni settori particolari sono le tre strade per le quali in generale, non solo ad Arezzo, viene ridimensionato il potere legislativo delle città. Aggiungo qui un'osservazione particolare, cioè in questa direzione, per il terzo punto, l'arbitrio concesso ai giudicenti, è molto importante verso la fine del 400 e agli inizi del 500 l'istituzione di una figura di giudicente nuovo, il commissario, che non è il capitano e non è il podestà. Il commissario, che ha qualche affinità con la figura tratteggiata da Otto Hinze per tutt'altro contesto storico, evidentemente è legato a Firenze da una particolare commissione, cioè da una delega di potere, ed è in qualche modo sottratto all'obbligo dell'osservanza degli statuti locali. Quanto questa innovazione della fine del 400, inizi del 500 sia importante, lo si vede per esempio da una serie di proteste che ad Arezzo, nei primi decenni del 500, vengono poi fatte contro l'esistenza ad Arezzo di un commissario e per il ritorno al capitano, proprio con questa motivazione. Il commissario non osserva gli statuti locali. Ovviamente non li osservava quando gli era utile non osservarli, non certo nelle questioni poi spicciole. Comunque è un elemento rilevante. Ecco, rispetto a questo sistema, cioè esistenza di statuti locali, riconoscimento di una potesta statuendi alle comunità e alle città ovviamente, e necessità dell'approvazione a Firenze, c'è un caso anomalo, che è un grosso caso, ed è quello di Pisa. Qui i capitoli del 1406, che non sono stretti con il comune e con il popolo, ma soltanto con una parte, quella di chi aveva trattato con Pisa, sugli statuti si tace, non si dice nulla, e gli ordinamenti dati unilateralmente da Firenze a Pisa poco dopo stabiliscono soltanto che il capitano e il podestà debbano esercitare la loro giurisdizione in civilibus et criminalibus secundum statuta communis pisarum et in casibus in quibus statutis non disponunt secundum ius commune. Le discussioni antiche e recenti che ci sono stati in merito al problema degli statuti pisani, a cui accennava Chitolini nella sua relazione introduttiva, si sono in realtà soffermate soprattutto e direi quasi esclusivamente sull'ultima clausola, cioè sul vigore dello ius commune quando gli statuti pisani tacciono. Questa tuttavia non è un'anomalia, devo dire, perché la stessa clausola esiste negli statuti aretini e a Pistoia vige il principio de similibus ad similia e non del ricorso agli statuti fiorentini. L'anomalia pisana sta invece nel fatto che nel capitolo del 1406, negli ordinamenti del 1406, si parla di statuti ma non di potesta statuendi, cioè del vigore di quelli che esistevano, ma non si parla della possibilità di rinnovarli, né di approvazione a Firenze. potestà statuendi e necessità dell'approvazione a Firenze saranno presenti solo nei capitoli che invece vengono dati a Pisa dopo la ribellione del 1494 al suo concludersi nel 1509. Questo silenzio non impedisce affatto che vengano fatte a Pisa e sottoposte all'approvazione fiorentina delle statuizioni locali anche prima del 1509. Ci sono dei nuovi statuti fatti a Pisa, non numerosi in realtà, ma ci sono. Però quel silenzio originario spiega due cose di una certa rilevanza. L'assenza di statuti di Pisa a Firenze è la grande lacuna dell'archivio degli statuti delle comunità soggette a Firenze, è quella degli statuti di Pisa, non ci sono, manco neanche mezzo. E anche probabilmente l'assenza di codificazioni a Pisa dopo la fine della libertà, per usare la loro espressione. Non esistono statuti pisani, quattrocenteschi e cinquecenteschi. Gli statuti pisani sono ancora quelli duecenteschi, del periodo quindi della piena fioritura comunale. Ecco, possiamo porci una domanda a questo punto, cioè possiamo chiederci se il fatto di dover chiedere l'approvazione a Firenze è una sorta di ratifica formale o no. Devo dire che molti storici del diritto effettivamente hanno sottolineato soprattutto gli elementi di continuità, cioè il fatto che l'approbatio era la norma, di un'autorità superiore era la norma, e che qui semplicemente cambiava il destinatario, ma in sostanza si era nell'ambito di un sistema che era il sistema generale degli statuti nel loro rapporto con la Lex. Ecco, a me sembra però che ci si possa chiedere se invece questa necessità dell'approvazione da Firenze non segni un passaggio sostanziale di jurisdizio, quella jurisdizio che per esempio secondo Pietro Costa è poi l'immagine e la realtà direi anche del potere politico nei secoli del Medioevo e anche in buona parte, secondo me non esclusivamente, nella prima età moderna. Vediamo ora un altro aspetto, sempre nel secondo punto che ho indicato inizialmente. Autonomia, controllo dell'attività statutaria sono evidentemente aspetti del governo del dominio. Quali sono i limiti dati all'autonomia, quali sono le forme di controllo esercitate, evidentemente sono strumenti proprio di governo. Allora ci si deve chiedere come si configura questo governo agli inizi, nel periodo proprio immediatamente successivo alla formazione dello Stato territoriale fiorentino, cioè agli inizi del 400. Come si configura negli statuti elaborati a Firenze nel 1408 da Antonio di Montegranaro e poi rivisti nel 1415 da Paolo di Castro. Sono statuti importanti in relazione al nostro tema perché sono stati elaborati proprio in relazione, come dicono esplicitamente, ai problemi posti a Firenze dall'ampliamento territoriale, dall'assoggettamento di infinita castella civitates oppida. Il dominio è investito in effetti dagli statuti in più modi. Sono previsti intanto degli uffici centrali specifici per assumere alcune particolari funzioni in alcune aree territoriali. È ripreso negli statuti l'ordinamento dato ai sei di Arezzo, una magistratura fiorentina che doveva essenzialmente sovrintendere ai problemi inerenti, ai problemi militari e alle fortificazioni ad Arezzo, ma non solo ad Arezzo, anche a Pistoia per esempio o a Castrocaro, che è la località centrale della Romagna assoggettata da Firenze. Sono ancora indicati negli statuti fiorentini i compiti dei dieci di Pisa, un'altra magistratura creata pochi anni prima evidentemente specificamente per Pisa, questa volta non soltanto con compiti di carattere militare e paramilitare, ma anche proprio per controllare e quasi direi gestire le finanze cittadine. Sono inoltre previsti dagli statuti degli strumenti specifici di controllo sugli statuti delle comunità soggette e sulle riforme degli uffici. Gli statutari per quello che riguarda il controllo degli statuti e i riformatori per quello che riguarda le riforme degli uffici. Questi due campi che per certi aspetti si sovrappongono, ma per altri, ripeto, vanno distinti. Statutari e riformatori devono essere cittadini fiorentini, si stabiliscono i criteri, anche in questo caso, della creazione a Firenze delle borse da cui devono essere estratti i nomi, e sono cittadini fiorentini di rilievo, organici proprio al ceto dominante. Il terzo modo in cui gli statuti di Firenze investono il dominio è il modo più importante. Vengono delimitati i quadri giurisdizionali in cui il dominio viene suddiviso. Dal punto di vista dell'estensione territoriale delle giurisdizioni e dei limiti delle competenze dei giurisdicenti. Si scrive dunque a Firenze, in sostanza, un capitolo fino ad allora tradizionalmente riservato agli statuti locali, cittadini evidentemente, e che questi continueranno d'altra parte ad includere, attenendosi però alle linee fissate a Firenze. Il capitolo de officio o de balia potestatis. C'è anche negli statuti locali, però c'è anche negli statuti di Firenze, e gli statuti locali si conformano per forza a ciò che è detto a Firenze, soprattutto diciamo per le competenze, ius sanguinis o non ius sanguinis, giurisdizione solo civile o solo criminale, giurisdizione nella bassa criminalità o no. Ma anche per esempio per la costituzione della famiglia del podestà, cioè quanti notai e giudici deve portare con sé, quanti messi deve avere, eccetera, eccetera, per la durata della carica, il modo di nomina, eccetera, eccetera. E questa evidentemente è una forte limitazione della libertà statutaria cittadina. Ecco, il problema dell'autonomia statutaria locale e dei suoi limiti è evidentemente un aspetto della politica del diritto praticata dal principe, in questo caso uso principe per Firenze, e non è che uno tra i diversi aspetti del governo del dominio, abbiamo detto. In questa direzione Firenze, probabilmente, anzi certamente, più omogenea per interessi economici, strutture sociali e anche per cultura e per diritto alle città che viene assoggettando, forse l'eccezione è Pisa, dove per esempio il diritto ha dei suoi sviluppi particolari proprio in relazione all'attività marittima. Firenze dunque più omogenea, è retta da un ceto dominante, forse già più interessato che non quello veneziano alla proprietà fondiaria e dunque concretamente a quella che uno studioso francese ha chiamato, Yves Barrel, ha chiamato la territorializzazione, cioè il superamento del sistema urbano e la creazione di un sistema territoriale. Firenze dunque dà vita, già all'inizio del 400, ad un modello assai diverso da quello della terraferma veneta. Un modello che è chiaramente delineato negli ultimi statuti di Firenze, quelli del 1415, e che ha questi aspetti, oltre a quelli che abbiamo già visto. Il sistema giurisdizionale descritto dagli statuti, a suggello di misure che erano già state prese in buona parte, più che a premessa di sviluppi futuri, sancisce in modo molto netto la separazione delle città soggettate dai propri contadi. A questo proposito, tre sono i punti rilevanti. Vi è una drastica limitazione della giurisdizione dei tribunali che hanno sede nelle città. Secondo me bisogna dire tribunali che hanno sede nelle città e non tribunali cittadini, perché non sono più tribunali cittadini, sono tribunali gestiti da fiorentini inviati nelle città stesse. Per esempio a Pisa, questo è il caso più drastico, la giurisdizione del capitano di Pisa non supera la città, i borghi e i sobborghi. Cioè molto ristretta. ad Arezzo è un po' più larga, ma ingloba oltre ad Arezzo soltanto quella che si chiama la zona delle cortine e camperie, un raggio di 8 miglia in sostanza. A Pistoia la cosa è ancora un po' più larga, però pur sempre limitata, cioè il capitano di Pistoia ha giurisdizione sulle podesterie di Montale Agliana e Serravalle, che erano quelle che racchiudevano la pianura pistoiese, per l'alta criminalità. Per il resto però no, cioè le podestà hanno una giurisdizione autonoma. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che viene sottratto alle città il diritto di nominare giudicenti nel contado. Vi è un'eccezione periferica che è quella di Volterra, però è un'eccezione che conferma la regola, cioè Volterra è una città più vicina a Siena che a Firenze. Ecco, Firenze non ha nessun interesse specifico di tipo territoriale per Volterra, ne ha ben altri, Volterra produce il sale, per questo è molto importante per Firenze, però non per la terra, e dunque ecco, a Volterra viene lasciato il diritto e in certo senso anche l'onere di nominare dei giudicenti nel contado, ma per il resto no. Vengono invece create quelle podesterie, quei vicariati rurali che abbiamo già nominato, amministrati da giudicenti fiorentini con sede del tribunale in alcune località che non hanno nulla a che fare con le città e talvolta sono veramente località minori, cioè non sono neanche le terre e i castelli cui abbiamo accennato. Per esempio i vicariati intorno a Pisa hanno sede a Lari e a Vico Pisano, sono dei castelletti proprio, veramente poca cosa, che in certo senso vengono rivitalizzati proprio dal fatto che lì vi è messo un tribunale vicariale gestito da un fiorentino. Il terzo punto, anche questo molto importante, forse il più importante dal nostro punto di vista, è che intorno alle città vengono attivate altre fonti di diritto statutario, e cioè viene riconosciuta potestà statuendi alle comunità rurali e agli organi di governo federativi di podesterie vicariate. Abbiamo già in sostanza detto che se le prime si limitano a normare in merito ai propri pochi uffici e alle questioni inerenti alla vita locale, per esempio agli usi ai beni collettivi, nonché alcune questioni, come vedremo dopo, che sono più cocenti, ai secondi viene invece affidato il compito di fissare insieme, si badi bene, ai podestà e vicari fiorentini che sono lì, le procedure e le norme di diritto sostanziale cui essi, questi giudicenti, dovranno attenersi nell'ambito e limiti delle loro competenze giurisdizionali, applicando, quando gli statuti locali tacciano, lo statuto fiorentino. C'è una norma dello statuto fiorentino che dice che dovrà essere applicato dove gli statuti tacciano e non vi siano altre disposizioni. Dunque non là dove si dice vige lo ius comune, anche se di questo poi appunto diversi giuristi hanno discusso, però certamente là dove nulla del genere si dice, cioè in queste zone di tipo rurale. Ecco, secondo me questa è per lo Stato di Firenze la fine o almeno il sostanziale ridimensionamento dell'irradiazione dei diritti cittadini nei contadi, e in questo senso veramente la storia del diritto locale nello Stato di Firenze è una storia molto diversa da quella veneta, veramente un'altra storia, quasi specularmente opposta per certi aspetti. Negli statuti cittadini 4-500eschi, gli statuti di Arezzo e di Pistoia per esempio, il contado ha spazio solo in due casi: là dove il rettore, che ha sede nella città, ha ancora giurisdizione, per esempio nell'ambito dell'alta criminalità sulle comunità rurali. Per esempio negli statuti di Pistoia ci sono delle norme che dicono che le comunità sono obbligate a catturare i malfattori, ci sono delle norme che riguardano i banditi e le comunità rurali, ma questo è non perché la città abbia giurisdizione in qualche modo sulle comunità, perché ha giurisdizione il capitano fiorentino. Vi sono inoltre delle norme negli statuti cittadini sulla gestione della proprietà, sui contratti agrari, sulla effrenata audacia rusticorum e il danno dato, sull'indebitamento dei lavoratori, che era veramente un aspetto direi organico ai rapporti tra proprietari contadini e tra proprietari cittadini e diciamo i coloni o mezzadri o i loro lavoratori nelle campagne. Esiste in sostanza una sorta di area di frontiera in cui normano però anche le comunità rurali, cioè questi stessi problemi sono presenti anche negli statuti podestarili e vicariali, cioè negli statuti in cui si esprimono poi gli interessi rurali. E in merito vi sono infiniti scontri, che sono evidentemente scontri strettamente legati ai conflitti di interessi tra contadini e cittadini. Vi è una lunga conflittualità, quattrocentesca, e Giorgio Chittolini ha segnalato nel suo saggio fondamentale, e da me parecchio sfruttato in questa parte della relazione, sulle strutture territoriali dello Stato fiorentino all'inizio del Quattrocento, ha sottolineato il fatto che probabilmente su questi terreni le città poi riprendono un certo potere dopo i primi decenni del Quattrocento. È anche vero però che questa conflittualità è ancora assolutamente aperta nel Cinquecento. Ancora nel Cinquecento, per esempio, si discute nel Pisano se i contadini indebitati debbano essere giudicati dai loro podestà o venir portati davanti al capitano di Pisa. Chi deve fare eventualmente i pignoramenti? Sono questioni in cui ovviamente le posizioni sono inconciliabili. In certi momenti prevalgono le une, in altri bisogna dire le altre, cioè anche quelli dei rurali. Per esempio, Pisa elabora nel 1570 uno statuto del dannodato per tutto il contado, lo invia all'organo che allora sovrintende agli statuti, di cui parleremo in seguito, e questo statuto viene rinviato a Pisa, non approvato, con la motivazione che Pisa non può fare uno statuto del dannodato perché le comunità hanno i loro statuti del dannodato. Danno dato voleva dire cosa doveva pagare il contadino che faceva danni alla proprietà cittadina. Vi è dunque in sostanza, secondo me, una profonda rottura tra città e campagna, operata sotto la direzione, per precisa volontà, per un preciso programma di Firenze, già nel periodo della formazione dello Stato territoriale. Una rottura che ha conseguenze di lunga durata e che in qualche modo è irreversibile. Io ho l'impressione, per esempio, che una delle ragioni per cui in Toscana poi, nel corso del Cinquecento, non ci saranno sviluppi analoghi a quelli che si hanno in Lombardia e nel Veneto, con la formazione intorno alle città e contro le città di corpi territoriali che esprimono gli interessi del contado, è proprio che qui, in certo senso, la situazione è superata agli inizi del Quattrocento, in forme, se si vuole, poi meno mature che non quelle che poi prendono forma in queste altre aree, però è già superata agli inizi del Quattrocento. Resta da chiedersi, e arriviamo al terzo punto e ultimo della relazione, come sia venuto evolvendo il diritto statutario cittadino che, ridimensionato per quanto riguarda il contado, però ovviamente ha continuato ad esistere, ad essere importante, nel nuovo contesto territoriale. Quale sia stato il funzionamento nella pratica degli strumenti di controllo, quali i rapporti tra gli statuti locali e la legislazione del principe. Affronterò questi temi soprattutto attraverso un'esemplificazione che si riferisce a Pisa, Arezzo e Pistoia, che è limitata in realtà, bisognerebbe senz'altro prendere in considerazione anche altri contesti, però insomma per ora la situazione è questa, vedremo come sarà a gennaio, ma non sarà molto diversa. Allora, secondo me è necessario ancora una volta tornare sulla distinzione delle riforme dagli statuti. Le riforme costituiscono nell'archivio di Stato di Firenze, nella serie di cui abbiamo parlato, una serie fitta, strettamente connessa con il rinnovo degli uffici e delle borse per gli uffici, che ha luogo con una periodicità regolare. Ed è indubbio che i fiorentini hanno una grande attenzione per le norme che regolano gli uffici e per la scelta degli uomini che li reggono. Io ho l'impressione che l'osservazione che faceva ieri Pozzolo sulla forse indifferenza dei veneziani al problema degli statuti e sull'esistenza di altri tavoli su cui si giocavano gli interessi reali e i reali problemi di governo, ecco, qui trovo una sorta di conferma, cioè la cosa che più interessa i fiorentini è proprio questa, cioè come vengono fatte le borse, chi sono gli uomini, perché questo è un elemento importante ed è un elemento tanto più importante probabilmente quando Firenze passa sotto la signoria Medicea, perché come sappiamo dagli studi di Rubinstein poi tutto il sistema di governo, anche cittadino dei Medici, si fonda su questo, cioè non tanto sull'applicazione della legge ma sulla creazione di strumenti che in qualche modo vanno al di là delle istituzioni prefigurate e che servono a tutelare gli amici e a servirsi degli amici, cioè a passare attraverso forme di alleanza che in qualche modo sono extra legem. Dunque i fiorentini si occupano vivamente delle riforme e della creazione delle borse. Le riforme sono dei capitoli estremamente dettagliati che però sempre lasciano in ombra un margine, quello stesso margine che Ascheri sottolineava per Siena, cioè in sostanza non si sa come poi vengono scelti coloro che ricoprono gli uffici. Secondo me non si sa, o si sa solo in parte, si sa poco, proprio perché questo è il sistema e questo deve essere, cioè c'è un margine di arbitrarietà, c'è un margine che viene lasciato alla decisione di chi fa le borse. Allora, chi fa le borse? Questo evidentemente è un punto molto importante. Chi fa le borse e chi fa le riforme, cioè stabilisce anche le norme entro le quali poi, sia pure in un margine di arbitrarietà, bisogna muoversi. È possibile, secondo me, distinguere delle fasi diverse. Prendiamo Arezzo. Arezzo, dal 1387 al 1432, le riforme sono fatte da quattro riformatori fiorentini, cioè dall'organo previsto effettivamente dagli statuti fiorentini, e da quattro statutari eletti dal Consiglio Generale. Non ha importanza evidentemente la parità, però ha importanza questa forte presenza di cittadini fiorentini che sono proprio inviati per questo e che sono scelti per questo, cioè scelti proprio in rapporto agli equilibri di potere a Firenze, eccetera. Nel 1432 c'è una svolta, io avrei preferito fosse qualche anno più tardi, cioè con l'avvento dei Medici, ma invece nel 1432 c'è una svolta, e cioè in realtà adesso agiscono i riformatori locali sotto il controllo del capitano. Il capitano è una figura evidentemente prevista proprio anche dagli statuti locali. Le riforme rientrano in un ambito locale controllato, però locale. E si continua così fino al 1502, quando c'è la ribellione di Arezzo. Dopo la ribellione c'è un momento di dura repressione da parte di Firenze e vi sono cinque riformatori e generali commissari, Civitatis Arezzi e della cittadinanza di Arezzo, della città di Arezzo e degli altri luoghi ribelli, sono Cortona, Borgo San Sepolcro e Castiglion Fiorentino, nominati direttamente da Firenze, dai priori e dal consiglio, che vengono mandati sul posto e non è neppure che facciano delle borse, nominano i priori, cioè scelgono evidentemente delle persone che in quel momento dessero delle garanzie a Firenze. Questo sistema dura non so quanti anni, certo perché qui c'è una lacuna nelle riforme, certamente è superato nel 1523, quando c'è dopo la restaurazione dei Medici, questo mi piace, cioè legato in qualche modo forse ai Medici, quando agiscono di nuovo il capitano e i riformatori locali. Prendiamo Pisa, le prime riforme hanno luogo nel 1428, cioè dal 1406 al 1428 evidentemente o non c'erano uffici locali o gli ufficiali venivano nominati direttamente dai fiorentini. Vi sono dei riformatori fiorentini che si associano, otto pisani eletti dal Consiglio Generale come segretari e proprio per la creazione delle borse. Il sistema muta nel 1441, cioè anche a Pisa nel 1441, qui siamo sotto i Medici, vi sono le riforme, vengono fatte da 8 priori, dagli priori pisani, da 8 cittadini pisani sotto il controllo del podestà. Vi sono alcune oscillazioni, ma il sistema dura fino al 1494, quando anche Pisa si ribella. Nel 1511, nelle prime riforme dopo la fine della ribellione, i riformatori sono 8 cittadini pisani eletti dal capitano questa volta, cioè non sono eletti dal Consiglio di Pisa ma dal capitano, cioè si passa attraverso, diciamo, un'alleanza organica con una parte della popolazione pisana. In seguito si avrà una puntata autoritaria sotto il primo duca di Firenze, Alessandro, che nomina direttamente i priori lui, con grande scontento dei pisani, e poi un ritorno al sistema precedente sotto Cosimo I. L'ulteriore svolta è la nomina diretta da parte del duca, non dei priori, ma dei riformatori, a partire dal 1559. Ultimo caso, Pistoia, qui i riformatori fiorentini sono già all'opera nel 300 in realtà, cioè nel periodo dell'egemonia esercitata da Firenze su Pistoia, per balia del comune, come ambasciatori di Firenze, che però a Pistoia in realtà fanno loro le borse per gli uffici. Sono ancora all'opera nel 1401-2, questa volta però come semplici riformatori eletti da Firenze e senza che si parli più di balia del comune di Pistoia. Nel 1406 si associano dei cittadini di Pistoia, nel 1451 anche a Pistoia agiscono i riformatori insieme al capitano. Qui la situazione è molto particolare perché Pistoia è dilaniata da lotte di fazioni, cancellieri e panciatichi. Nel 1489 Firenze, in uno sforzo di creare una larga base che in qualche modo gestisca anche i contrasti tra le fazioni, crea a Pistoia un organo particolare, il Consiglio dei Graduati, in cui affluiscono tutti coloro che hanno già ricoperto le massime cariche cittadine, il gonfalonierato e l'opera e la presidenza dell'opera di San Jacopo. E sono i graduati, questo consiglio abbastanza largo di 60-70 persone, che fanno le riforme. Quindi c'è veramente una restituzione alla città di compiti che sono cittadini, sempre naturalmente con la presenza obbligatoria del capitano e sotto il suo controllo. Anche a Pistoia avrà un suo momento duro, un po' dopo quello delle altre città dello Stato di Firenze, cioè nel 1538 Pistoia avrà la cattiva idea di sostenere i repubblicani contro Cosimo, viene poi duramente repressa e vengono soppressi per 10 anni gli uffici locali, cioè c'è una sorta di commissariamento della città. Al momento della restituzione degli uffici nel 1548 riprende il sistema precedente. Vi sono evidentemente delle diversità tra le diverse città, graduati a Pistoia, e anche però delle linee di tendenza comune. Da momento di durezza iniziale, quando agiscono i riformatori di Firenze, sembra di poter intravedere una tendenza ad un diverso atteggiamento verso le forze locali. Vi è poi una crisi all'inizio del secolo XVI e dopo, agli inizi del Principato, la ripresa di una politica di maggior rispetto, forse, delle autonomie dei ceti dominanti cittadini. È questa una ripresa della città? Lasciamo per ora, della città proprio, diciamo, dell'autonomia cittadina, lasciamo per ora la domanda in sospeso e vediamo cosa succede per gli statuti, cioè per proprio il diritto statutario complessivo. Nel secolo XV il sistema del rinnovamento degli statuti affidato ai poteri locali e dell'approvazione a Firenze funziona male. Abbiamo detto che non ci sono statuti complessivi a Pisa. Sono stati raccolti gli statuti parziali da uno studioso sardo, Antonio Era, si tratta però di poca cosa. Non ci sono però, secondo me, si può pensare anche che non ci siano arrivati, però io ho l'impressione che non siano stati fatti, neppure degli statuti complessivi ad Arezzo nel 400, benché nel 1397, cioè 13 anni dopo l'assoggettamento della città, da Firenze si sollecitassero il capitano e il podestà locale, non gli organi di governo locale, ma il capitano e il podestà a provvedere alla revisione globale degli statuti, che erano invecchiati. Sono perduti e sono stati fatti o non sono mai stati fatti? Per ora devo dire, ecco, il mio è un sospetto, ma non più di questo. A Pistoia le cose sono diverse, Pistoia ha anche una grossa vecchia tradizione giuridica e questo forse conta. Pistoia fa dei propri statuti, li rifà localmente nel 1417. Sono statuti redatti dal comune popolo di Pistoia e approvati dal Consiglio Generale, non da Firenze. E questi statuti probabilmente validi non sono. Nel 1435 vengono rifatti in effetti gli statuti. Da chi? Dal capitano podestà fiorentini. Udite le richieste locali ed osservate le forme prescritte. Nel 1451, altro rifacimento degli statuti, ancora capitano e podestà, più quattro statutari fiorentini eletti a Firenze per corrigere, emendare, addere, minuere, annullare et nova statuta facere in totum vel in partem a Pistoia. E qui, ecco, si ha l'impressione veramente di una situazione ben diversa e che devo dire mi ha sorpresa quando l'ho toccata con mano, ben diversa da quella della terraferma veneta, cioè qui c'è un intervento forte, deciso dei fiorentini proprio nel merito degli statuti. Bisogna dire che il modo di operare è poi naturalmente a partire dai vecchi testi, c'è una continuità, si fanno delle correzioni, si fanno delle riscritture, si riordina, si levano alcune cose e se ne aggiungono altre. Però l'intervento c'è. Nel secolo XVI, Pisa niente, Arezzo ha dei nuovi statuti nel 1503, dopo la ribellione della città, fatti da cinque riformatori fiorentini, ma questo non ci stupisce. Degli statuti duri, che rafforzano per esempio la giurisdizione del capitano e del commissario, che acquistano anche un potere sui priori e sul consiglio di Arezzo, che nulla possono fare senza il beneplacito del capitano e del podestà. Nel codice penale, per esempio, sono ricordati e aspramente puniti i delitti contro Firenze, de pena facenti contra statum e contra magistratum Florentiae, e si va dalla pena di morte a pesanti pene pecuniarie per quelli che oggi noi chiameremo delitti di opinione, no? Cioè le pene pecuniarie solo per chi proferendo velloquendo abbia nuociuto a Firenze. Altri statuti sono fatti nel 1536, cioè all'inizio del Granducato Mediceo e dopo che Arezzo ha ricevuto dei nuovi capitoli nel 1531, perché c'era stato un ulteriore momento di ribellione nel 30-31, dei nuovi capitoli che riconoscono la potestà statuendi e l'obbligo di chiedere l'approvazione a Firenze. Sono dunque statuti di una ritrovata concordia. Ed è bello che questa, è interessante che questa rinnovata concordia ed un nuovo clima in sostanza vengono veramente espressi nel preambolo dello statuto. Si dice che gli statuti sono dedicati a Cosimo I da un membro di una famiglia notevole di Arezzo, a Pistoia che c'è la dedica del cancelliere. Nel preambolo degli statuti si dice che desiderando la città di Arezzo, le sue camperie e cortine, perché questo è l'ambito degli statuti, cioè le 8 miglia intorno a Arezzo, i cives incolas e incole i villici del capitanato, vivere sanctis legibus et statutis optimis recte optimeque regi, ecco, e dal momento che la legge è fondamentale per appunto perché ci si possa reggere nel modo migliore e regge e rende conserva la Respublicam e la rende felice, considerato tutto questo degli statutari aretini che sono stati nominati per pubblico decreto dal Generale Consiglio di Arezzo, intraprendono la riforma dei Prisca Statuta, che non sono quelli del 1503, ma sono effettivamente quegli altri, cioè quelli trecenteschi, per questo che io credo che in mezzo non ce ne siano. Addente, e ancora una volta aggiungono, levano, costituiscono, introducono nuovi statuti, eccetera, e riducono il codice, riducono tutto in codicem in 4 libri. Ulteriori statuti verranno fatti nel 1565, sempre da statutari aretini, con approvazione di Firenze, e infine nel 1580, nello stesso modo. Quelli del 1536 e del 1580 sono anche a stampa. Pistoia, anche qui vengono fatti dei nuovi statuti nel 1546, ancora in un momento in cui in realtà Pistoia è commissariata, 2 anni prima della restituzione degli uffici sospesi. Sono una sorta di petizio benevolenzie verso il Duca, dedicati a Cosimo I dal cancelliere Giovanni Forteguerri, membro di una cospicua famiglia locale, che ricorda i facti dei che ricorda i maiores nostros, cioè ciò che le imprese degli antenati, le tradizioni anche del diritto cittadino. E d'altra parte ricorda le calamitates maximas che hanno colpito Pistoia, i vari diversique casus che hanno alterato la situazione della città, e chiedono ora l'adeguamento delle leggi alle nuove funzioni. Il sistema delle leggi pistoiesi è tale che serve ad litigandum potius atque omnium confundendum quad ad tranquille et oziose vivendum, e per tranquille et oziose vivendum vengono fatti i nuovi statuti dal Forteguerri, che è cancelliere, dunque ha o è notaio o ha pratica notarile, diciamo, e da 2 giuristi che vengono nominati dal Consiglio locale. Altra edizione degli statuti, sono a stampa anche questi, statuti manoscritti hanno luogo nel intorno al 1560-66, questa volta agiscono 8 statutari locali, tra cui diversi sono giuristi, e ancora una volta c'è l'approvazione di Firenze. Altri statuti a stampa nel 1579, nel 1613 e nel 1647, ogni volta agiscono gli statutari locali, c'è una dedica degli statutari locali ai Granduca in carica, prima Francesco I, poi Cosimo II, poi Ferdinando II, e vi è anche una dedica, e questo è anche importante, del cancelliere della comunità e del procuratore fiscale, cioè di 2 giuristi o notai che siano, cioè un cancelliere forse è un notaio, che evidentemente hanno ormai in mano però gli statuti, che ritengono di poterli anche loro dedicare, così come gli 8 riformatori cittadini al Granduca. Ecco, allora alla fine possiamo di nuovo richiederci se questa moltiplicazione degli statuti cittadini nel Cinquecento indica una ripresa del diritto cittadino, una ripresa della giurisdizione cittadina. La risposta secondo me deve essere cauta, perché certamente questo, insieme al fatto che le riforme anche passano nelle mani delle città, insieme ancora a un altro fatto, e cioè che vengono rafforzate, non completamente create di ex novo, ma rafforzate ed ampliate delle giurisdizioni d'appello cittadine, affidate ai tribunali dei priori, che si servono poi del Consilium Sapientis e dunque dei giuristi dei collegi cittadini. Ecco, tutto questo indica indubbiamente l'esistenza di equilibri diversi nel Cinquecento, in cui hanno maggiore spazio le forze locali e soprattutto hanno maggiore spazio i patriziati cittadini. Però ci sono delle cose che vanno ricordate e ormai ricorderò telegraficamente. È da ricordare che sotto il Principato, e in particolare proprio sotto il primo Granduca di Firenze, Cosimo I, vi è una forte tendenza alla centralizzazione, in particolare nell'amministrazione della giustizia, con il rafforzamento di una serie di tribunali, di tribunali centrali, e su piano civile e su piano penale. Bisogna ricordare che Cosimo I punta molto su delle nuove istituzioni di controllo non più giurisdizionale, ma amministrativo, sulle comunità soggette e sulle città anche. Vi è un nuovo ufficio, per esempio, l'ufficio dei 9 conservatori, che ha una sorta di controllo su tutte le spese fatte dalle comunità, quindi sulla loro politica interna, perché non si può più nominare un maestro, per esempio, senza chiedere il consenso della magistratura centrale. Vi è dunque una situazione in cui sì, esiste ancora la giurisdizione come potere, evidentemente, ma esistono anche altri poteri di tipo amministrativo. In sostanza il passaggio, vorrei dire, dalla fase di cui ha parlato Pietro Costa, giurisdizione uguale potere politico, a una fase in cui lo Stato stesso diventa un'altra cosa. È sorretto dai rettori, dai giudici, ma anche dai cancellieri e, aggiungerei, dai ragionieri. Ci sono una quantità enorme di ragionieri, razionari, che vigilano, che rifanno i conti, che sindacano, che fanno tutto questo. Vi è dunque uno spostamento anche delle forme di controllo. Esistono però, continuano ad esistere, queste forme sugli statuti. Sono forme di controllo esercitate non più dai riformatori, ma dai nuovi uffici del Principato, dall'auditore fiscale, un giurista evidentemente, immediatamente investito di compiti dal principe, che ha lasciato per certi periodi dei bellissimi registri in cui risultano tutti minuscoli, incredibili statuti che a lui arrivano e che lui approva, che sono proprio i singoli statuti, cioè lo statuto sulle vendemmie, sulle scuole, eccetera, eccetera. Ha poi un ruolo specifico il Supremo Consiglio Ducale, la pratica segreta, che interviene non per propria autorità, ma per delega del Duca o di chi per lui, cioè per esempio dell'auditore fiscale quando il problema è grosso e non lo vuol risolvere direttamente, oppure in seguito a supplica inviata al Duca dalle comunità locali o da organi di governo locale, per esempio anche dal capitano fiorentino. La pratica segreta esprime pareri e di fatto decide, perché poi i pareri vengono rispettati, su singole rubriche o intere codificazioni statutarie. Per esempio, trattiene nelle proprie mani per ben 10 anni, intorno alla metà del Cinquecento, i nuovi statuti di San Miniato, una di queste terre destinate tra l'altro poi a diventare città, che presentano evidentemente dei problemi su cui la pratica segreta vuole veramente intervenire. 10 anni bloccati, dice poi l'auditore fiscale, protestando presso la cattedra, per la pratica, che Miniato è una oppidum sine lege, cioè ormai vive proprio al di fuori della legge. Abbiamo le prove che in alcuni casi almeno, il caso di Pistoia nel 1566, ci sono addirittura delle trattative preliminari, dei contatti preliminari con la pratica segreta nel caso di redazioni di nuovi statuti. A Pistoia, appunto, ho trovato una sorta di brogliaccio degli statuti nel 1566 in cui si mettono in luce tutti i punti di innovazione. E poi la risposta della pratica, precedentemente alla emanazione dello statuto, in cui la pratica dice questo sì, questo no. E questo sì, questo no viene fatto a Pistoia, viene rispettato. Dopodiché l'approvazione va da sola, evidentemente. Ecco, un altro punto va richiamato, e cioè il fatto che sotto il Principato si intensifica a un forte incremento l'attività legislativa del principe. Io non ho parlato, in realtà, e avrei dovuto farlo, delle provvisioni centrali emanate già nel corso del Quattrocento, molto, molto ricche anche nel Quattrocento. Sono per esempio normati e decisi dal centro interi settori amministrativi a Pisa, l'ufficio dei fiumi e dei fossi, importantissimo perché si occupa dei problemi idrografici della comunità del Contado, è anche presente in una di scorcio negli statuti pisani, ma in realtà gli statuti dell'ufficio dei fiumi e dei fossi sono cosa a sé e sono fatti a Firenze. A Pistoia gli ordinamenti centrali entrano per esempio nel merito delle questioni dei banditi. È Firenze che legifera sui banditi, non Pistoia. Quindi ci sono grossi settori in cui anche nel 400 penetra la legislazione centrale. Sotto il Principato però c'è veramente una tendenza molto più esplicita a fare delle leggi applicate in tutto lo Stato, compresa Pistoia, che è sempre che tradizionalmente aveva le esenzioni maggiori dalle provvisioni centrali. Queste leggi sono particolarmente numerose nell'ambito dell'alto diritto penale, in primo luogo il crimen lese maiestatis, ma poi anche gli omicidi, le malefatte dei sicari, lo stupro, eccetera, ma anche dei delitti contro la morale, la sodomia, la bestemmia, il gioco. Sono tutte leggi fatte a Firenze e applicate in deroga a qualsiasi statuto locale. Esistono anche altre leggi generali, per esempio ne cito una sola, sul taglio degli alberi, la legge ecologica fatta a Firenze e applicata dovunque. Ecco, è un altro modo, evidentemente, un'altra cosa da tenere presente per contestualizzare il problema degli statuti cittadini nel Cinquecento. Con paradosso solo apparente, dunque, in questo quadro complessivo di rafforzamento delle istituzioni politiche e, direi, di disciplinamento, si colloca anche una ripresa del diritto cittadino e più in generale del diritto locale. Anche in questo caso, però, l'iniziativa è solo in parte delle forze locali. Vi è una legge di Cosimo I, una legge di Cosimo I del 1546, in cui Cosimo constata come egli è accaduto qualche volta che alcune comunità del già detto suo Stato hanno perduto gli statuti loro, e questo ci dice qualcosa anche sulla situazione pregressa, o per guerra o per incendio o furto o per altro sinistro accidente, e spesso per tenere poca cura delle cose loro, il che occorse non molto tempo fa alla terra di San Miniato, questa disgraziatissima terra che poi non riesce a avere lo statuto perché lo blocca la pratica segreta, al castello di San Giovanni Valdarno di Sopra, le quali per non si essere trovate, non se ne trovare le copie alle riformagioni, per non avere avuto né avere il modo di rifargliele, si sono trovate e ancora oggi si trovano senza le proprie leggi, il che non sarebbe successo se alle riformagioni predette ne fossino state e ne fossino oggi o le copie o gli originali. Di qui risulta che la legge, l'obbligo della consegna alle riformagioni era in realtà stato evaso in molti casi, però su questo si torna, e si torna con la fermezza propria del Principato e degli ufficiali di Cosimo I. Nello stesso anno l'auditore fiscale Jacopo Polverini, che è un giurista di vaglia, quello che tra pochi anni dopo farà la lex sul crimen lese maiestatis, scrive a tutti i rettori delle comunità inadempienti perché si facciano carico di inviare copia degli statuti e di chiederne l'approvazione, essendo non solo utile ma necessario che i sudditi nel dominio di Sua Eccellenza vivino coi loro statuti approvati secondo gli ordini. È cioè un'esigenza, diciamo, del disciplinamento complessivo dello Stato, che essendoci ancora dei diritti locali, questi vigano, questi siano veramente affermati. E questo è fatto anche, come dice la stessa legge del 1546, delibera, non è una legge, di Cosimo I, questo è fatto anche per una ragione specifica, per togliere, dice Cosimo I, a delinquenti la speranza che tengono, la quale insino a oggi non è venuta loro in alcun modo frustrata, di doverne conseguire qualche remissione da rettori che li hanno avuti e hanno a giudicare, cioè contro un obiettivo, in funzione di un obiettivo generale di Cosimo I, la limitazione dell'arbitrio dei giudici, un obiettivo affermato e, a proposito degli statuti locali, e nei preamboli di molte delle leggi generali che vengono emanate in questo periodo. E con ciò siamo veramente alla conclusione, ho come l'impressione di aver battuto tutti i record precedenti, siamo alla conclusione, e semplicemente per dire che scusate, sì, semplicemente per dire che, ecco, ancora una cosa molto rapida, cioè che gli statuti che ora si richiamano in vigore sono in realtà però degli statuti diversi da quelli del periodo, come ovvio, precedente all'assoggettamento a Firenze, ma anche, per esempio, degli inizi del 400, quando esistono dei termini di confronto. Sono statuti diversi e lo sono per tante ragioni, perché al loro interno erano stati via via registrati, come ovvio, le trasformazioni avvenute nei sistemi di reggimento locale, questo va da sé e non ci soffermiamo su questo, perché erano stati inseriti statuti nuovi e ordinamenti fiorentini. E anche qui potremmo fare dei riferimenti testuali. A Pistoia, per esempio, c'è una copia dello statuto del 1435 annotata evidentemente in funzione di un'ulteriore revisione, e si dice di aggiungere gli ordinamenti fiorentini del 1474 che concedono la convocazione dei pistoiesi davanti al Tribunale della Mercanzia e dei Pupilli. Sono inseriti poi e diventano norma dello statuto pistoiese, ma originariamente sono fiorentini. Un altro punto che si va notato è che molte rubriche erano state rimosse, e anche questo non sempre per ragioni locali. Nella stessa copia degli statuti pistoiesi del 1435 si dice che la rubrica Declinantium iurisdictionem communis pistorii, che riguardava i chierici, deve essere rimossa in totum quia contra libertatem ecclesiasticam. Difficile pensare che questo sia problema pistoiese. No, è del 1435, però è fatta in funzione di secondo me, degli statuti cinquecenteschi. Capito? Perché anche qui, se no, ecco, c'è un riferimento al 1474, si chiede dopo. Ecco. Un altro elemento importante è l'adeguamento della legislazione locale alla legislazione dello Stato. Abbiamo un altro brogliaccio nel 1580 ad Arezzo, e qui in alcuni casi, ecco, si dice che non c'è più da normare in certe materie perché esistono le leggi granducali, per esempio in fatto di bestemmia o in fatto di sodomia. Ecco, e poi ancora, e io questa è semplicemente una, diciamo, un'ipotesi di lavoro per ora, perché in sostanza il diritto seguiva anche delle strade comuni, e questo tanto più in un'area come quella toscana, in cui l'eredità romanistica è molto forte, la formazione dei giuristi segue le stesse strade, avviene negli stessi studi, e quindi c'è una cultura comune. Fatti come l'inserimento, l'introduzione a Pistoia del fede commesso nel secondo Cinquecento, ecco, sì, è un fatto pistoiese o è un fatto di adeguamento generale al diritto? Difficile dirlo. Con ciò concludo dicendo questo, che la Toscana Medicea, da un lato, mi sembra offra il modello di uno Stato precocemente consolidato, con un forte ridimensionamento delle autonomie cittadine, e d'altra parte il modello di anche, diciamo, l'immagine di un processo in cui queste autonomie hanno una diversa collocazione e in un contesto completamente diverso, una qualche ripresa semmai nel Cinquecento. Ecco, mostra d'altra parte il caso toscano una cosa che secondo me può avere un interesse più generale, e cioè come il problema della statuizione cittadina e quello della statuizione della legislazione centrale non vadano sempre visti in termini di contrapposizione, ma invece vadano visti, possano essere visti in termini di compenetrazione dell'una nell'altra e di coesistenza nell'ambito di un unico disegno. Questo, con ciò io vi ringrazio e mi scuso veramente. Forse facciamo una pausa molto breve, no? Solo 10 minuti reali, non 10 minuti teorici, perché pensavo questo, siccome molti partono probabilmente con i 2 euro siti all'1,50, 1,57 per il nord e per il sud, Allora, il pasto è alle 12.30 qui alla mensa, in modo tale che si può arrivare tranquillamente all'1.30 a essere in albergo e all'1.50 a essere in stazione. Insomma, ecco, cioè, quindi dovremmo finire qui per le 12.30. Ecco. Quindi 10 minuti di pausa, alle 11.10 si comincia e abbiamo già 1.40 per la discussione. Ecco, non c'è... Non è stretta la discussione, 1.40. Ganz schnell verheddere. Thema waren also die Statuten von Florenz und das heißt das, was die Statuten von Florenz gleichzeitig bedeuten für die Beziehung von Florenz zu den von ihr beherrschten Städten. Frau Fasano hat uns drei Phasen vorstellig gemacht des 15. und 16. Jahrhunderts. Und zwar folgende. Die erste Phase ist im 15. Jahrhundert anzusetzen, als Florenz sich einen Großteil seines Territoriums sichert mit den entsprechenden Städten dazu. Wobei Florenz die Statuten, die bestehenden Statuten in diesen Städten zunächst anerkennt und die Möglichkeit von Erneuerungen, von Reformen gibt, allerdings über einen Podestà, über einen Vermittler, der von Florenz gestellt wird, sodass die freie Wahl eines Podestà von diesen beherrschten Städten nicht mehr existiert. Eine zweite Phase setzt kurz danach ein, eine Phase, die man vielleicht als Vereinheitlichung und Zentralisierung bezeichnen könnte, eine Phase, in der während Auseinandersetzung um die Selbstständigkeit der beherrschten Städten Florenz seine dominierende Stellung herauskehrt, sodass viele Stadtstatuten durch florentinische Statuten ersetzt werden und letztlich auch jedes Urteil in einer beherrschten Stadt von einem von Florenz bestellten Capitano erlassen wird. Bestimmung und Kontrolle sind also die Instrumente der dominierenden Stadt Florenz. Die Statuten von Florenz beziehen sich einerseits auf sein Dominium, beziehen sich darauf, dieses Dominium zu teilen und die juristischen Kompetenzen der unterdrückten Städte, der beherrschten Städte einzuschränken. Das passiert zum Beispiel so, dass in den Städten die Kompetenzen der Gerichtshöfe auf einen sehr engen Einzugsbereich beschränkt werden, dass auch zum Beispiel von den beherrschten Städten keine Rechtssprecher mehr für das umliegende Contado bestellt werden dürfen und dass im Bereich des Contado Florentiner Statuten zur Anwendung kommen. Eine dritte Phase, und das ist jetzt sicherlich auch mit die interessanteste, ist die Phase, die sich nach der Etablierung der fürstlichen Herrschaft, also der Medici-Herrschaft in Florenz abzeichnet. Denn wir können hier eine Art Umkehrung des Prozesses feststellen, insoweit, dass nachdem zuvor die Bürger der unterdrückten Städte nicht mehr an Gesetzgebung, Statutenregelung etc. beteiligt waren, nun wieder einbezogen werden in verschiedene Reformen. Frau Fasano hat das auch zitiert als Rinnovata Concordia, also eine erneute Übereinstimmung in dem Fall zwischen herrschender und beherrschter Stadt. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit, denn wir können einerseits damit sagen, dass die städtischen Statuten der beherrschten Städte wieder eine gewisse Stärkung erfahren, allerdings eine Stärkung unter patrizischer Herrschaft, dass aber andererseits Florenz gerade in diesem Zeitraum unter den Medici-Fürsten eine verstärkte Gesetzgebungstätigkeit im 16. Jahrhundert entfaltet, eine Gesetzgebungstätigkeit, die im Gesamtterritorium zur Geltung kommt und Polizei, Luxusordnung und weiteres einbezieht. Sodass man letztlich sagen kann, dass wir eine sehr starke Veränderung von Statuten haben, nämlich von der schriftlichen Fixierung der städtischen Statuten über die Einbeziehung florentinischer Gesetzgebung im 15. Jahrhundert, dem Austausch von ganzen Teilen städtischer Statuten oder dem Wegfall durch Florentiner Gesetzgebung und letztlich aber auch die Einbeziehung fürstlicher Gesetzgebung. Als Ergebnis sollte man hier vielleicht festhalten, dass es sich damit nicht nur um Konkurrenz von verschiedenen Gesetzgebungsformen, von Gesetzgebungsgremien und richterlichen Gremien handelt, sondern dass man eigentlich eher von so etwas wie positiver Koordination von Gesetzgebungsvorhaben und Durchführung sprechen kann. Das war es jetzt in aller Schnelle, sämtliche Details fehlen. Ja, vielen Dank. Allora forse si può dare inizio alla discussione con questa rapidissima premessa di tipo organizzativo, cioè come ricordava prima il professor Prodi, allora verso le 12:30 qualche minuto prima interrompiamo per quello che riguarda gli atti del convegno di questa settimana. E la consuetudine è che i relatori presentino i loro testi. Stavo dicendo della consegna dei testi delle relazioni per gli atti a gennaio all'istituto, cioè l'istituto qui a Trento raccoglierà i testi. Non si danno, ricorda il professor Prodi, dei limiti rigidi né in un senso né in un altro all'ampiezza di questi testi. Io credo che occorra tenerli in linea di massima, diciamo, nei limiti di una relazione a un convegno, insomma, ecco, non diciamo il saggio troppo lungo, ma neanche una cosa troppo sommaria. Un'altra possibilità, un'altra cosa da dire è questa, e veramente mi sembra molto opportuna, oltre ai relatori, i professori ospiti e anche i borsisti che ritenessero di poter dare un contributo ai temi affrontati in questa settimana, ecco, potrebbero sottoporre al professor Willowhite e a me questi testi, in modo da arrivare a questo volume che non fosse soltanto la registrazione di alcune relazioni, ma così offrisse l'opportunità di raccogliere anche altri contributi su questi temi che mi pare in questi giorni hanno dimostrato una certa vitalità e un certo interesse, insomma. Ovviamente qui si tratterà poi di vedere editorialmente, non si può immaginare, insomma, una collana di volumi sugli statuti, no? Però ecco, se c'è qualche contributo, magari poi ci si sente e si vede, ma io credo che sarebbe opportuno che se questi testi ci sono, se questi contributi ci sono, arricchiscano il volume che si sta preparando. Also zur Publikation. Folgendes zu sagen, also alle Referenten möchten bitte ihre Manuskripte direkt hier nach Trient an Herrn Kollegen Prodi schicken, und zwar bis Januar haben wir vorgesehen als Termin, damit dann im nächsten Jahr die Publikation zügig vorangehen kann. Das wäre der erste Punkt, was den Umfang betrifft. So soll er nicht wesentlich den des Vortrags überschreiten, also da ist ein gewisser Spielraum da, aber es soll da nicht eine ganz anders geartete große Abhandlung wie ein großer Klotz da erscheinen, nicht? Also das gibt es ja auch manchmal, dieses Schein, also das bitte nicht. Ich glaube, da verstehen wir uns richtig. Die folgende Punkt ist da noch wichtig, die Gastprofessoren und die Stipendiaten hier im Kreise haben die Möglichkeit, zu diesem Band einzelne Beiträge zu bestimmten Einzelfragen beizusteuern. Das ist zunächst einmal dem Urteil jedes Einzelnen überlassen, ob er etwas beizutragen hat, was in die Gesamtthematik passt. Diese Beiträge sind dann zu schicken an Herrn Kittolini bzw. an mich. Und wir entscheiden dann, ob wir es aufnehmen können, ob das gut hineinpasst oder ob es vielleicht doch etwas zu sehr eine Spezialfrage betrifft, die woanders publiziert werden sollte. Aber die Möglichkeit ist grundsätzlich gegeben. Es wäre schön, wenn wir auf diese Weise den Band noch etwas bereichern könnten. Ich glaube, das ist alles, was zu sagen ist. Bene, allora se non ci sono domande specifiche su queste cose tecniche, ma non credo, si possono eventualmente poi risolvere, allora diamo inizio alla discussione. Io ho già richieste di intervento, chi è interessato ad intervenire magari me lo segnala così io prendo nota via via. Per ora Angela De Benedictis. Vorrei entrare nel merito, dato che il tempo è poco, di due questioni, sono poi una, di carattere generale. La questione inizialmente è quella di dove si fanno i giochi sugli statuti o meno, insomma, no? Sugli statuti o su altre cose, cioè riprendendo l'osservazione fatta dalla professoressa Fasano Guarini in merito anche all'intervento di ieri di Pezzolo. Il problema del rapporto appunto fra riforme degli uffici, statuti, ecco. Se si vuol fare, come si è detto, insomma, tentare di capire una diversità molto complessa ormai, come abbiamo visto, di situazioni, non solo all'interno dei singoli stati territoriali, insomma, ma anche così generalmente attraverso questi stati, sempre dal mio punto di vista molto locale, del mio esempio bolognese, che però ricordo copre un territorio estremamente ampio, ecco, direi che dire che la posta in gioco non è tanto sugli statuti ma da altre parti nel Cinquecento, in questo caso, ecco, nel mio caso non è tanto vero, nel senso che per esempio le magistrature di cui si parlava, gli uffici di cui si parlava, no? Le riforme connesse alle le riforme elettorali connesse a questi uffici, eccetera, eccetera, sono in realtà, per esempio nel caso di Bologna, completamente dentro gli statuti. Questo da un punto di vista formale. Il che significa che, per esempio, quando da Roma, e questo ripetutamente ma con diversi esiti e non sempre con successo nel 5, 6, 700, si vuole tentare, per esempio, di limitare il funzionamento di questi uffici, di limitare la capacità autonoma del Senato locale di entrare, come entrava praticamente unicamente, insomma, unicamente lui dentro queste cose, in realtà ci si appella proprio agli statuti. Allora, il problema, voglio dire, può sembrare banale, insomma, il problema è che quando gli statuti sono talmente ampi da inglobare anche questo, allora c'è ovviamente, io credo almeno, un grosso significato simbolico anche che permane, no? Ma è anche qualcosa di concreto, nel senso che quando per esempio a Roma si dice vogliamo l'abolizione di questo ufficio oppure proponiamo la riforma del sistema elettorale di questo ufficio e da Bologna si dice no perché l'interesse è mantenerlo, questo ovviamente è una eccessiva semplificazione, insomma, ma tanto per farmi capire brevemente, ci si appella allo statuto che peraltro è sempre mantenuto. E qui credo che nel fatto che lo statuto venga mantenuto, anche qui con tante cose intorno, dipenda sempre da un elemento di opportunità politica. Cioè qui veramente la varia storia italiana, le guerre del Cinquecento prima, per un periodo successivo, le guerre settecentesche poi, con quello che comportano all'interno degli stati territoriali e delle città. Bologna ancora nel Settecento aveva, se non dichiarate esplicitamente, fazioni guelfe e ghibelline che operavano in senso concreto, insomma, che, voglio dire, creavano del caos e del disordine non solo a livello interno nella città, ma che significavano anche qualcosa quando passavano le truppe imperiali, insomma, che potevano appoggiare le une le altre. Ecco, diciamo che la vittoria, sempre per dirlo brevemente, dello statuto e quindi dell'autonomia cittadina, quando viene riaffermata, è qualcosa, diciamo, di cui sostanzialmente il potere centrale non può fare a meno, anche per una questione di difesa del territorio complessivo, quindi dello Stato anche. Ecco, questa è una cosa, rapidamente un'altra, il problema del controllo, del passaggio da un controllo non più giurisdizionale ad un controllo amministrativo, a proposito per esempio della magistratura dei 9 conservatori dello Stato, se non ho capito male. Ecco, io qui ecco, non lo so, volevo chiedere, è proprio solo amministrativo questo controllo? Ecco, questo era perché, di nuovo, riferendomi a un esempio diverso di una città che però tende a comportarsi come se fosse princeps, sostanzialmente nel mio caso, anche da questo punto di vista, gli uffici che si dicono amministrativi continuano ad avere in realtà un forte controllo di tipo giurisdizionale, cioè quelli che siedono in questi uffici, che sono poi deputazioni del Senato, siedono pro tribunali, e questo significa qualcosa anche in relazione, diciamo, a quello che viene regolato. Dunque, il primo punto, ecco, dove si fanno i giochi? Ecco, io credo che, volevo dire qualcosa di un pochino diverso, cioè non è certamente anche Firenze ha bisogno dello statuto locale, tant'è vero che sempre quando si fanno le riforme non è che ci si limiti a fare le borse, si specificano i modi in cui vengono fatte, il funzionamento delle magistrature, la loro composizione, eccetera, eccetera. Il discorso è però che oltre questo, al di là di questo, c'è veramente un problema di reclutamento di uomini, di quegli uomini e non di altri, di scelte. E questo, secondo me, è in sostanza detto anche dagli statuti, poi, in quello che resta di profondamente indefinito nel modo in cui poi vengono fatte le borse. Perché noi sappiamo che ci sono dei criteri di ammissibilità, va bene? Cioè bisogna stare in città da un X anni, essere figli di cittadini originari, talvolta in molti casi aver già ricoperto gli onori, si dice quale decima bisogna pagare, eccetera, tutto questo. Sappiamo chi fa le borse e come si viene imborsati, cioè attraverso lo scrutinio poi degli imborsatori che devono votare i nomi degli idonei. Quindi sappiamo tutto questo, dopodiché però gli imborsatori possono imborsare quelli che sono magis aptos et idoneos, questa è l'addizione, e questa è un'addizione che lascia uno spazio inequivocabile, uno spazio che si vuole ci sia. Per cui, ecco, va bene lo statuto, va bene la regola, ma in sostanza lo statuto stesso presuppone un margine di arbitrarietà in cui si muovono tante cose. Si muovono per esempio anche a Pistoia, dove appunto non sono più ghibellini e guelfi ma sono panciatichi e cancellieri, si muovono le fazioni che non risultano mai esistenti dagli statuti. Non c'è nessuna clausola degli statuti in cui si parli delle fazioni, però esistono altro che. Esistono fino appunto all'avvento di Cosimo I, quando lui ne fa fuori una, resta l'altra e dunque. Prima esistono e i fiorentini stanno attentissimi agli equilibri tra le fazioni. Se una viene, subisce un colpo, poi i fiorentini fanno in modo che abbia anche una ripresa di potere. Ecco, questo come avviene? Avviene non evidentemente in base alle norme di statuto, ma in base a quest'altra cosa, che è lo scegliere in magis aptos et idoneos. Allora, quando tu mi dici che Bologna è una situazione diversa, è possibile, però poi mi hai detto anche che le fazioni esistono anche a Bologna. E non in questo momento. Cioè non sono un sistema di spartizione degli uffici. Vabbè, e allora ecco, ci sono chiaramente delle differenze. Direi che questo tipo di struttura, in Toscana è proprio, secondo me, è molto importante, molto, è proprio uno dei caratteri. Sì, difatti. La seconda cosa è quella del controllo non più giurisdizionale ma amministrativo. Ecco, non c'è dubbio che è anche giurisdizionale. I 9 sono anche un tribunale, non solo un tribunale, anche un tribunale. Non solo un tribunale, questo per esempio è provato dal rilievo particolare che hanno, come in tutte le magistrature di Cosimo I, non i collegi, non tanto i 9 cittadini, ma poi gli altri, cioè per esempio quello che si chiama il soprasindaco, che in linea di massima anche lui un fiorentino, ma nominato dal Granduca, con compiti specificamente economici, come dicono gli statuti stessi. Quindi è ben vero che è ancora giurisdizionale. Secondo me l'elemento nuovo è che è anche amministrativo, e questo poi è chiaro, figuriamoci, il sedere, il fungere da tribunale arriva non so quando. Io volevo portare solo qualche elemento comparativo a questo problema delle fazioni e degli uffici, perché a Genova per certi aspetti assomiglia forse più alla situazione fiorentina, ma anche alcune peculiarità che non sono ancora riuscita a risolvere, ma che potrebbe essere utile conoscere. Nel senso che il sistema fazioso è un sistema molto, molto forte e molto, direi anche molto organizzato e istituzionalizzato. Come avevo detto, fino al 1528, senz'altro tutti gli uffici sono sempre distribuiti a metà tra nobili e popolari, a metà tra guelfi e ghibellini, bianchi e neri, e all'interno dei popolari a metà tra due sottocategorie, mercatores e artifices. Il problema è che da un lato abbiamo una formalizzazione, cioè tutti hanno diritto alla loro quota parte prestabilita, e che viene anzi stabilita da una certa data in poi, viene prestabilita quali sono gli uffici che vanno alle fazioni. Cioè si dice, non so, due protettori di San Giorgio quest'anno saranno un artefice bianco e un nobile nero, e poi si vede chi risponde a queste qualità. Il problema che c'è, il problema che ho io, è appunto come non ci sono le imborsazioni, cioè non si sa come venissero fatte non tanto le imborsazioni, ma come venissero creati questi libri da cui poi i collatori degli uffici traevano i nomi. Perché probabilmente vi erano due, credo di poter dire che vi erano due vie completamente diverse. Nel senso che per quanto riguarda i nobili si può direi ipotizzare da quello che appunto dicono le regole, perché sono le regole che hanno organizzato questo settore della vita del comune, si dice che saranno i principali di albergo che daranno i nomi delle persone da mettere nel libro. E quindi direi che il criterio prioritario dovrebbe essere quello della discendenza familiare, quindi un criterio di sangue, prevalente se non esclusivo. Mentre appunto per i popolari il criterio è dei magis aptos et idoneos. E quindi il problema è che questi magis aptos et idoneos vengono scelti a livello di quartiere, cioè di strutture cosiddette di quartiere, di territorio, le strutture in cui era divisa la città. Come vengono scelti? Ebbene, su questo non si sa assolutamente nulla. L'ipotesi è, io credo, sia criteri familiari di sangue, perché sono persone ormai che sono secoli che fanno parte di queste, diciamo, patriziato, protopatriziato, e sia a livelli di censo, perché si nota per tutto il 400 un forte ricambio soprattutto nel settore degli artifices, che comprendeva ad esempio una professione centrale come quella notarile. Grazie. Vielleicht sollten wir ganz kurz wenigstens das Problem anreißen, worum es da geht. Die Frau Benediktes hätte gefragt, wo wird denn nur eigentlich gespielt? Sind es nur wirklich die Statuten oder ist es nicht vielmehr in den Ämtern? Das heißt also, wer bestimmt die Amtsträger? Wie werden Amtsträger ausgewählt? Nach welchem System läuft das? Wird das in den Statuten festgelegt oder nicht? Und Frau Fasano führte aus, dass das in Florenz offenbar so eine Art Grauzone ist, und zwar mit einem System, was sich offenbar System de Borsa nennt, wobei ich nicht genau begriffen habe, wie dieses System de Borsa funktioniert, was das eigentlich ist. Und für Genua wurde dann noch ausgeführt, dass auch hier offenbar ein anderes System von Amtsträgerbestimmung vorherrscht, ein System, was uns vielleicht etwas näher liegt, nämlich zum Beispiel eine paritätische Verteilung zwischen Familien oder zwischen politischen Gruppen oder eben auch zwischen Stadtvierteln, eine Aufteilung, die sich dann natürlich auch in den verschiedenen Zeitabschnitten etwas ändert. Frau Benediktis, ich wäre sehr froh, wenn Sie ganz kurz dieses System der Borsa erklären könnten. Das ist mir überhaupt nicht klar, was das soll. Also ich könnte mir vorstellen, dass es anderen von uns genauso geht. Cioè, almeno come penso che sia più o meno simile dappertutto, è una borsa dove vengono messe, almeno per nel, è un sistema molto diffuso insomma nelle città italiane, è una borsa dove vengono messi, una borsa nelle tasche, dove vengono messi dentro dei bussolotti coi nomi in genere. Ecco, sì, sì, questo imborsazione degli uffici. Com'è in tedesco? Losverfahren. Ah. Sì, sì. Ecco, però non è a sorte, cioè il problema è, ecco, no, non questo, sempre. Non sempre, ci sono a volte sistemi combinati, no? Perché ecco, bisogna vedere chi, cioè quali sono i nomi che vanno dentro le borse. Già questo, qui c'è un'operazione preliminare che nelle varie situazioni cittadine viene fatta in varia maniera, a seconda anche richiamandosi a come veniva fatto nelle epoche, diciamo, proprio pienamente comunali. Sì. Esatto, sì, con dei criteri non chiari sempre, non si sa sempre, insomma, che variano, comunque che sono, queste borse vengono rifatte periodicamente, spesso ecco, i nomi vengono rimessi dentro, ovviamente c'è chi muore e quindi se ne va e deve essere reintegrato il posto, ecco, è un sistema estremamente complesso, comunque l'imborsazione è questa. Allora, se... si fa borsa aperta, se prima si guarda e si guarda chi si vuol fare Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so auf die Schnelle erklären kann, aber es geht wohl darum, dass eben in einen großen Tasche eben die entsprechenden Namen gelegt werden, wobei man allerdings schon vorher weiß, wer sich bewirbt und das Ganze eben auch zum Beispiel aus einer ganz bestimmten Fraktion eben verschiedene Namen hereingegeben werden, sodass in jedem Falle klar ist, dass eine ganz bestimmte Fraktion eben so und so viele Mitglieder stellen wird, wobei es eben zusätzlich noch das System auch der offenen Wahl gibt, das heißt die Namen, die dann irgendwann da rausgezogen werden, die sind so schön offen dargelegt, dass man also genau sieht, was man da zieht, ja, was da rausgezogen wird. Aber nach welchen Kriterien nun welche Tasche mit welchen Losen, mit welchen Namen gefüllt wird, diese Kriterien sind offenbar relativ unbestimmt und wohl von Fall zu Fall verschieden, je nach politischer Situation. Io mi sembra interessante l'apporto di Savelli proprio nell'ambito di questa comparazione che in fondo stiamo facendo, ed effettivamente mi sembra che certi aspetti siano del tutto affini e non meno intriganti di quelli che ho segnalato per Firenze, cioè come veramente poi avvenissero le cose in parte non si sa. Ed è interessante comunque che avvengano su un terreno che lascia dei giochi aperti. Allora, Scherio, grazie. No, dunque io è una relazione così ricca che mi devo ancora riprendere da tutte le informazioni e valutazioni interessanti che sono venute. Non entrerei nei particolari perché questi poi si potranno vedere. Volevo dire che appunto molto opportunamente si è sottolineato con questa differenza col Veneto, no? Come è venuta fuori, direi anche col Senese, cioè sono proprio due aree completamente diverse, sono confinanti. Però lo sviluppo che hai tratteggiato, perché poi al di là degli statuti hai fatto l'ordinamento statale dal 300 al 500, si sviluppa in modo completamente diverso. Là, qui tu c'hai un potere centrale molto forte che interviene anche pesantemente, mi è sembrato di capire, c'è ai primi del 400 proprio una ristrutturazione complessiva. Interessante appunto che in questa occasione siamo venuti fuori gli statuti, no? Di nuovo, ecco, lo statuto che viene fuori in questi momenti di particolare di riflessione complessiva, no? Sull'ordinamento dello Stato. E invece nel senese tutto questo non c'è, insomma, non ci sono questi interventi nella redazione statutaria che in genere è fatta da commissioni locali, non ci sono questi interventi nelle borse, cioè mentre tu parlavi io pensavo sempre di più che è una specie di, quella del senese è invece una specie di federazione per così dire, ecco, con una città madre, però poi ci sono, a parte le zone del contado in cui la proprietà cittadina è molto forte, ecco, che in cui praticamente non c'è struttura comunitaria, ecco, laddove invece c'è una struttura comunitaria con statuto eccetera, ecco, c'è una situazione completamente diversa. Stavo pensando semmai, ecco, interventi autoritari di questo tipo sono avvenuti un secolo prima, ecco, nel momento forse di maggiore intervento e di ristrutturazione dell'ordinamento è stato il primo 300, ecco, che anche dagli statuti risulta essere il momento di maggiore creatività, per così dire, no? Ecco, anche lì c'è stato, è il momento di interventi più 200-300, insomma, quando ad esempio, non so, si progettava di abbattere Montalcino perché aveva aiutato Firenze, cioè ci sono proprio il territorio Torniella, altre comunità potevano essere anche lì, si interviene molto pesantemente. Direi che dopo il primo 300 invece comincia questa prassi contrattuale, no? Questa prassi bilaterale, i capitoli si rivedono periodicamente, ci sono delle comunità addirittura che hanno i capitoli che fanno le soggezioni temporanee, formalmente sono soggezioni temporanee, uno si assoggetta, riconosce Superior Siena, mettiamo per 20 anni, e poi si vedrà, si rinegozia il rapporto. Però sui particolari non entrerei perché abbiamo troppo poco tempo, mi volevo essenzialmente congratulare. Grazie. Dunque, sì, mi sembrano molto, molto giuste, molto giuste e interessanti queste osservazioni di Ascheri. Mi sembra abbastanza interessante che anche a Siena ci sia in sostanza una coincidenza tra la proliferazione degli statuti locali e la riorganizzazione del territorio, cioè queste due cose che non sono in realtà l'una contro l'altra, ma invece stanno insieme, si collegano. Questo mi sembra una cosa interessante. Aggiungendo fra l'altro che anche, visto che se n'era accennato prima, che anche così la concordia civica, che cioè la tacere completo delle fazioni che c'è in queste città, così forse potrebbe essere oggetto di qualche riflessione, no? Il fatto che impressiona anche i cronisti e i testimoni non locali, no? Omnes de Verona sunt la scala, cioè Pietro Azzario, no? Che tocchi situazioni lombarde nelle quali ci si azzuffa allegramente in città e nel territorio ancora per parecchio tempo. Dunque io devo confessare che non so se sono veramente aggiornata sulla bibliografia. Sì, quello sì. Ecco, sì, no, quello sì. No, appunto, volevo dire, io conosco il libro di Scimizu che investe proprio le questioni del contado pisano. Poi, lo Herli su Pistoia, ben inteso. E adesso sta uscendo una nuova storia di Pistoia, però per ora è uscito il primo volume che arriva fino all'anno 1000 circa. E poi sta per uscire il primo volume della storia di Prato che appunto riporrà quel problema. Ecco, l'impressione è che, e del resto un'impressione confermata dagli statuti che si hanno per il 200, l'impressione è che effettivamente nel 200 esistesse un'integrazione abbastanza forte e ci fosse una capacità di giurisdizione abbastanza notevole della città sul contado. Naturalmente con, diciamo, nei limiti in cui poi questo tipo di diciamo, il processo di dominio del contado è avvenuto in Toscana, cioè il fatto appunto che tra Firenze e Pistoia si crei uno spazio Prato come comune autonomo da Firenze e da Pistoia con un proprio minuscolissimo contado, ecco, è una cosa che in qualche modo colpisce, che colle che ha i limiti, che so, che ha i limiti tra Pisa e Firenze, ci sia San Miniato, che anche questo ha un contado da ridere, e anche questo sono cose che effettivamente hanno un loro rilievo, cioè l'impressione che se si facesse la carta dei contadi nel 200 in Toscana si avrebbe un intrico ben altrimenti forte che non nella terraferma veneta. Però ecco, Zorzi, Titolini, eccetera, forse potrebbero rispondere meglio di me su questo, perché io fin lì non sono risalita, ecco. Su questo punto in particolare non è che volevo intervenire su un'altra cosa. Sì, su riprendere un attimo quello che diceva anche Varanini, cioè sostanzialmente in quest'arco di tempo abbastanza ampio, che si pone tra 300 e 500, sulle fasi così di, diciamo, il rapporto che ci può essere tra un'evoluzione che chiamerei così di fondo strutturale, in un certo qual modo, che attiene lo sviluppo istituzionale di per sé stesso della statuizione e dell'organizzazione territoriale dello Stato, e invece fasi in cui si accelera, si intensifica l'intervento di centralizzazione, appunto di riforma degli statuti e così via. Cioè è una dinamica che è un rapporto, ci sono entrambi i momenti, insomma. E mi veniva anche questo da fare questa riflessione sul fatto che ho l'impressione che siano le fasi in cui la presenza medicea sia quattrocentesca, insomma sotto forma di signoria, ripeto signoria, che poi con la fase del principato, siano quelle in cui i processi di centralizzazione di natura più prussiana, insomma, siano meno intensi, meno apparenti, e che invece le forme di, per esempio anche appunto nel controllo, il caso di Arezzo, in cui ancora nel 1432 si aprano dei problemi di riflessione, insomma, su questo punto, cioè il fatto che poi è tendenziale alquanto il risultato della relazione nel 400, invece il fatto che i riformatori tendono a essere poi progressivamente i cittadini delle varie città, appunto, locali, insomma, sostanzialmente è una richiesta di ulteriore approfondimento su questo punto, cioè quanto pesa la struttura di natura repubblicana sulle riforme statutarie, sull'organizzazione della riorganizzazione giurisdizionale, quanto invece si sposti su un altro piano poi nel 500, nel caso del Principato, l'intervento, appunto spostamento dalla giurisdizione invece su piani più esplicitamente amministrativi, burocratici, e quanto invece ci sia una tendenza di fondo, appunto anche pregressa, come diceva anche Varanini, probabilmente di gestione dei rapporti giurisdizionali con i contadi, con i territori. Dunque io non so se posso approfondire, posso dire che l'ipotesi che il governo del dominio sia una cosa diversa sotto, diciamo, dal periodo della formazione sotto l'oligarchia degli Albizi e poi sotto i Medici, sotto la signoria Medicea, e poi ancora sia una cosa diversa nel periodo della Repubblica, con la crisi spaventosa che ovviamente subisce, poi ancora diversa con l'avvento del Principato, l'ho fatta e credo anche di averlo lasciato intuire, anche se poi le date non mi tornano del tutto bene, cioè certe cose avvengono ancora sotto la democrazia, sotto l'oligarchia albizzesca, e invece uno immaginerebbe che fossero più inerenti alla pratica medicea. Ecco, certamente ci sono anche altre questioni che sono significative, cioè il fatto per esempio che il catasto generale del 1427 viene fatto sotto l'oligarchia albizzesca, dà luogo a una serie di contestazioni e di ribellioni molto forti da parte delle città soggette, e i medici non lo applicano, in sostanza ci rinunciano. E quindi, ecco, chiaramente anche questo fa pensare ad un diverso atteggiamento dei medici, che in sostanza hanno poi le diramazioni della loro clientela anche nelle città soggette, il che risulta per esempio molto chiaro quando si vedono gli epistolari, i carteggi di Lorenzo il Magnifico, insomma, che sono stati pubblicati. Ecco, ho l'impressione anche che diciamo, delle differenze di questo tipo probabilmente si potrebbero ancora vedere tra momenti repubblicani e momenti medicei tra fine 400 e inizio 500. Per esempio, una cosa che però andrebbe totalmente studiata, perché non lo è, e che è interessante, è che nel 1529-30, cioè alla fine dell'ultima Repubblica, c'è da un lato una sorta proprio, una vera e propria disgregazione, no, del dominio fiorentino, e ci sono una serie di capitolazioni delle città fiorentine con il Papa, no, in quanto medici evidentemente, e sono delle capitolazioni in cui Papa Medici, evidentemente in quel momento, ma probabilmente senza rinnegare una linea politica della famiglia, dà effettivamente delle concessioni abbastanza ampie e cerca evidentemente un rapporto in qualche modo diverso. Mi sembra che, ecco, i medici invece del Principato sono decisamente un'altra cosa, cioè qui non c'è più l'idea della pratica, o perlomeno è molto limitata e segue altre strade l'idea della pratica con le famiglie locali. Cioè segue semmai la strada dell'integrazione di un certo numero di famiglie locali nella burocrazia medica, che è altra cosa, altro discorso. E invece c'è veramente l'idea forte, direi, dell'intervento attraverso le istituzioni da una parte e la legge dall'altra. Cosimo alla legge veramente crede molto, direi. Ci sono alcune cose molto belle che qui non c'entrano. Del Torre. Ma solo due parole, delle osservazioni che mi vengono in mente sentendo riparlare del discorso delle ducali, che era già stato ripreso ieri. Due parole così forse possono servire per meglio mettere a confronto perlomeno la realtà veneta con quella fiorentina. Le ducali, appunto, sono, questo è importante, sono delle raccolte di codici, come diceva Varanini, che vengono quindi trascritti dagli originali, quindi c'è già un'intenzione, diciamo, conservativa di un corpus di norme che arriva dal centro verso la periferia, e questo mi pare importante. Ma sono una raccolta di norme, di ordini che arrivano da Venezia verso la periferia di tutti i generi, cioè le persone che le hanno viste sanno che vi sono trattati dagli argomenti più importanti che riguardano la sicurezza dello Stato e via di seguito, fino a problemi anche molto molto concreti. Tra l'altro sono archivisticamente interessanti perché, soprattutto per il 400, suppliscono alle mancanze dei fondi veneziani centrali, che in questo periodo sono lacunosi. Quindi noi localmente, per esempio a Verona, troviamo tutta la legislazione emessa dai consigli veneziani riguardante Verona, che invece a Venezia non troviamo, paradossalmente. Ecco, ma l'importanza di queste ducali mi pare sia quella che costituivano per i rettori una fonte molto importante, forse quella più importante, nell'amministrazione della giustizia e l'amministrazione in generale dei reggimenti che governavano. C'è infatti a Venezia forse un sistema di questo genere che funziona, cioè c'è un filo diretto tra potere centrale e rettori, che forse sostituisce o fa le veci di quello che è il sistema toscano. Non so se riesco a spiegarmi, mi sembra che ci sia un intervento del potere centrale che è molto più frequente e assillante nello Stato veneziano, e questo fa un certo modo le veci di un'occupazione che invece è stabile, regolare, che sembra più forte nel dominio fiorentino. Quindi Venezia non può, non ha la forza di intervenire negli statuti, di ridurre l'autonomia, l'egemonia delle grandi città della terraferma sul contatto, questo è verissimo. Forse il sistema di controllo da parte dello Stato, del potere centrale sulla terraferma, avviene in questi modi diversi. Cioè, mi pare che, almeno visto che questo fenomeno delle ducali, chiamiamolo così, non esista, cioè nel dominio fiorentino, ecco, si possa istituire forse un paragone di questo genere, che forse consente anche di andare un po' al di là di un paragone che sennò non ci va a fare molti passi avanti, cioè vedere lo Stato prussiano in Toscana e invece uno Stato meno prussiano a Venezia. Ecco, a me pare che forse la cosa possa essere più. Che sta lì è sempre il podestà di Vicenza o di Padova, giura, prende la bacchetta, cioè tutte le forme sono rispettate, e resta il podestà della città. Cioè espedienti tipo commissario che si sentono in giro sono addirittura inimmaginabili, credo, adesso non vorrei esagerare, però è insomma ma il podestà sì. Ja, also ich kann da im Grunde genommen, muss ja jetzt etwas passen, weil ich den einzelnen Fragestellungen nicht ganz nachgekommen bin. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es jetzt in den letzten Fragen immer um das Problem der Zentralisierung einerseits und des Ausgreifens von Gesetzgebungsakten vom Zentrum in die Peripherie. Als Beispiele waren Florenz und dann Venedig angeführt worden, aber das, also mehr könnte ich da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Vielleicht Frau Benediktis. Es gibt direktere Wege, Gesetzgebungswege über diese Ducali von Venedig dann ins Territorium von Venedig hinein. Wohingegen es von Florenz ausgehend keine geordneten, keine Sammlung von Statuten, von Gesetzgebungswerken gibt, die ausgreifen können. Dunque, è possibile che questa sia una differenza che in qualche modo compensa le altre. Ecco, intendiamoci, un filo diretto tra rettori e Firenze e autorità centrali dello Stato. Anche nello Stato di Firenze, cioè scrivono e ricevono con grandissima frequenza, quindi in questo senso esiste. A questo filo diretto si aggiunge nel Cinquecento l'altro filo diretto che esiste tra i cancellieri delle comunità, quando questi poi non vengono più nominati localmente ma centralmente, e gli organi centrali. Non ci sono né le ducali né le relazioni dei rettori. Cioè quest'altro aspetto così evidente, insomma, della forza che la figura del rettore ha a Venezia. In Toscana sono pochissime e del tutto straordinarie per iniziativa personale le relazioni di questo tipo, se non molto molto più tardi vengono fuori. Grazie. Ci stiamo avvicinando purtroppo alla fine del tempo che abbiamo stabilito e ci sono già due interventi e poi vediamo se ci sta qualcos'altro. Professor Janssen, per favore. Mich hat soeben die Unterscheidung von Reformi und Statuti zu einer etwas umfassenderen Frage angeregt. Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, sind die italienischen Statuti, also erscheinen oder haben die Existenzform des Sammelwerkes, des Gesetzescorpus. Das unterscheidet sie im Wesentlichen von der Entscheidungsweise der Statuten in den meisten deutschen Städten, die als Einzelstatut erscheinen. Und diese Einzelstatuten haben die Funktion, auf Situationen zu reagieren, die im Stadtrecht nicht vorgesehen sind. Wenn ich Sie recht verstanden habe, sind die italienischen Städte, müssen sozusagen auf Änderungen des Rechtes und Zusätze warten, bis die nächste Reformation der Statuten ansteht. Oder wie reagiert das Stadtregiment oder der Legislator auf Situationen, wo plötzlich Einzelfälle geregelt werden müssen, ohne dass sofort das gesamte Statutenkorpus geändert werden braucht und muss oder kann, nicht? Das war meine Frage. Allora qui c'è effettivamente un problema, come dire, di parole simili che però hanno contenuti molto diversi, come abbiamo già notato nelle due situazioni, no? Per cui è possibile una grossa confusione di principi e di contenuti. Ecco, la domanda è questa, una è questa, gli statuti italiani, delle città italiane, hanno la forma del corpus? Cioè sono un corpus legislativo ampio, hanno proprio la forma anche del corpus, no? Ecco, e seconda domanda, come reagisce il legislatore o il governo cittadino, insomma chi ha questa funzione, quando in base a situazioni contingenti deve essere cambiata qualche norma e... cioè cosa succede? Però gli statuti sono fermi, gli altri arrivano dopo 50 anni, insomma, no? Che cosa si fa quando una norma degli statuti che sono in vigore deve essere cambiata? Ecco, questa sostanzialmente è la domanda. Sì. Dunque, il termine di statuto nelle città toscane, diciamo in Toscana, ha due significati distinti, indica il corpo statutario e la singola delibera statutaria. Quindi esistono sì i corpi statutari, per esempio quando io ho parlato degli statuti di Pistoia del 1536, 1579, 1613, eccetera, questi sono corpi statutari. Ecco, tra la redazione di un corpo statutario e l'altro, cioè la revisione poi di quello che già che esisteva, completamento eccetera, certamente possono essere emesse delle nuove delibere statutarie che vengono anch'esse inviate a Firenze per l'approvazione e nelle liste degli statuti, diciamo per usare il termine loro, approvati a Firenze, abbiamo appunto molte singole deliberazioni statutarie, però perché siano statutarie non solo devono essere fatte secondo le debite forme localmente, ma poi inviate per l'approvazione a Firenze. E questo su questioni anche minutissime oppure importanti può avvenire. Poi nella successiva redazione statutaria vengono messe nel corpo. Ja, es ist also durchaus so, dass wir einerseits den Korpus der Statuten haben als Gesamtwerk und andererseits eben auch Einzelstatuten. So dass also von einem Korpus über die Revision hinaus natürlich Einzelstatuten erstellt werden, und zwar ausgearbeitet nach den örtlichen Bedingungen und Notwendigkeiten, aber, und das ist sicherlich sehr wichtig, diese Einzelstatuten müssen nach Florenz gehen, für die Fälle, die Frau Fasano genannt hat, zur Billigung, zur Approbation. Und das ist im Grunde genommen so das Entscheidende, nach örtlichen Bedingungen, aber mit Florentiner Billigung. Und die gehen dann natürlich in der Revision in den neuen Gesamtkorpus ein. Grazie, Viggiano, allora. Mi sembra molto appropriata la riflessione che ha sviluppato Del Torre, però appunto se dovessi, volendo confrontare quelli che sono stati chiamati dei modelli, mi sembra che più che sul problema delle ducali si debba concentrare l'attenzione, a mio avviso, sulla gerarchia, non delle fonti, ma proprio delle corti di giustizia, sia a livello locale che a livello centrale. Voglio dire, mi sembra necessario per la Toscana e per il Veneto del 400, per arrivare a una considerazione veramente comparativa, creare una specie di mappa, se è possibile, delle corti di giustizia, sia a livello cittadino che a livello veneziano. E qui appunto si potrebbe valutare la cosa in questo modo, secondo me, per Venezia. L'impressione mia è che nel corso del 400, progressivamente, le corti d'appello veneziane sviluppino delle competenze e quindi realizzano in certo modo una concentrazione del potere che mi sembra di notevole interesse. I tribunali, i grossi tribunali veneziani, le quarantie civile e criminale, vengono investite di istanze così giudiziarie che per la legislazione e per quello che spesso veniva ripetuto con queste ducali ai sudditi non dovevano rientrare nelle loro competenze, perché per privilegio dovevano andare alle città. Molto spesso incontriamo o singoli o comunità rurali o Cives delle grosse città di terraferma che si rivolgono a questi tribunali e a cui questi tribunali danno una risposta. E, ad esempio, su tutta la materia delle condotte degli ebrei, no? Di cui ha trattato anche Varanini, ecco, nella quarantia civile del 400 si nota veramente questa attenzione veneziana al problema, oppure in materia civile di arbitrati che doveva rimanere alla città. Invece questo non si verifica, cioè delle grosse cause che venivano svolte in prima istanza nei tribunali di terraferma e che poi sarebbero dovute andare al Consiglio del Savio, invece passano non si verificano questo secondo livello d'appello, ma vanno direttamente a Venezia. E un altro momento che mi sembrerebbe molto interessante è questo dei sindaci, dei commissari, come lei ha detto, o dei sindaci veneziani. La cosa a Venezia è molto episodica ancora per il 400, ma quando si verifica è di notevole interesse, perché questi sindaci giudicano molto spesso secondo criteri di equità e quindi andando contro i privilegi delle città suddite. Mi pare appunto in quell'articolo di INSE che la professoressa citava che lo stesso Baudin citi tra gli esempi precoci di un sindacato, e per lui notevolmente interessanti, è proprio quello veneziano. E quindi nella cultura cinquecentesca circolava questa questione dei sindaci veneziani che avevano inciso notevolmente in questo reticolo di privilegi che, ecco, quello appunto delle precisazioni. Dunque, io sono molto d'accordo su questa osservazione, cioè ho l'impressione che la gerarchia delle corti sia in certo senso, ecco, importante perlomeno quanto la gerarchia delle fonti, cioè ci immette proprio nel funzionamento reale poi della giustizia. Ecco, la redazione di una mappa dei tribunali era negli antichi programmi dell'Atlante storico italiano è stata fatta per la Toscana, non per il Veneto. E per la Toscana anche, ovviamente, come si può fare una mappa, perché poi la presa e il rafforzamento dei tribunali d'appello della città dominante non è cartografabile, ecco, se non attraverso sintomi e simboli insufficienti. Ecco, direi che c'è un altro aspetto, cioè che una ricerca di questo tipo, per esempio appunto sullo sviluppo dei tribunali della dominante nell'appello, è una ricerca molto importante e molto difficile, perché allora bisognerebbe arrivare proprio al funzionamento reale, cioè quanti vanno lì, quanti vanno là, chi va lì e chi va là. È una grossa cosa che sarebbe interessante, che è veramente una grossa ricerca, perché tra l'altro per quello che conosco io questi archivi sono difficilissimi da praticare. Se non ci sono altri, io penso allora che forse si può chiudere la discussione ringraziando ancora la Fasano e gli intervenuti, e direi senza nessuna formalità, che so che a Paolo Prodi non piacciono, ma è anche opportuno, mi sembra giusto, ringraziare lui e l'Istituto per queste giornate che mi pare sono state singolarmente utili, e per le relazioni che abbiamo sentito e per gli interventi e per l'opportunità che ci è stata data di discutere così in questa convivenza simpatica di alcuni giorni i vari problemi. Quindi io volevo solo ringraziare, conclusioni forse non è il caso di farne almeno su temi così generali. Comunque la parola al professor Willow Weil. Ich darf den Dank der deutschen Teilnehmer anschließen an Sie, Herr Kollege Prodi, das ganze Haus hier. Herr Skira, übermitteln Sie bitte auch unsere Grüße. Es war sehr schön, hier zu sein, so ausführlich diskutieren zu können, wie man das sehr, sehr selten auf Tagungen kann. Und ich glaube, diese Ausführlichkeit hat sich bewährt, auch wegen der Zweisprachigkeit. Man muss Zeit zum Verstehen, zum Nachdenken, zum Übersetzen und so weiter haben. Ich hoffe, dass alle Teilnehmer doch mit neuen Eindrücken und Bereichern zu ihrer Arbeit zurückkehren können. Nochmals also ganz herzlichen Dank, Herr Prodi, und wir werden ja dann das Ergebnis dieser Tage auch in den Händen halten, und insofern wird es nicht verloren gehen. Also Ihnen allen arrivederci. Ecco. No, sono io che devo ringraziare sia i coordinatori in primo luogo, poi i relatori, i borsisti, tutti. Mi pare che sia stato di altissimo livello e quindi grossa gratitudine a nome dell'Istituto. Uno dei migliori seminari proprio per l'intreccio e la crescita, ecco, di una discussione comune che abbiamo avuto in questa nostra esperienza di 30 settimane. Ecco, non entro ovviamente nel tema, posso dire che quando avevamo scelto l'argomento avevamo in qualche modo fatto una scommessa, perché era piuttosto difficile. Le ragioni che ci spingevano erano che a noi pareva che nella storiografia tedesca e nella storiografia italiana negli ultimi anni stesse maturando proprio di mese in mese, direi, questo tema, ecco, questo importanza, ecco. Quindi ritenevamo opportuno appunto misurare e avviare una circolazione che era complicata, e di qui il rischio della scommessa, perché non si trattava tanto di mettere in connessione la storiografia italiana e quella tedesca, quanto la storiografia del diritto italiana, la storiografia generale, diciamo, italiana, la storiografia Rechtsgeschichte in Germania con la storiografia generale in Germania. E quindi c'è un'operazione, direi, più complicata del solito da mettere, ecco, perché senza entrare nel problema dello statuto appunto della storia del diritto in Italia e in Germania, anche accademicamente noi sappiamo che sia in Italia che in Germania siamo in un momento, direi, di revisione completa, ecco, credo che si vada verso nuove, anche se per ora predomina forse la confusione, insomma, ma la necessità è proprio di questi tipi di fusione, insomma, perché la storia generale ha sempre più bisogno della storia del diritto e forse anche viceversa. Ecco, quindi mi sembra, ecco, volevo solo dire questo, che il rischio meritasse, e almeno i risultati sono stati così, così buoni, ecco, che ringrazio ancora tutto. Come è stato detto prima, speriamo di far partecipi la comunità più ampia degli studiosi con la pubblicazione, insomma, fra un anno di poter contribuire anche con la pubblicazione a questo tipo di maturazione generale. Sì.